cacciato in sicurezza il mio spavento. Oh,

Thank you. mio, che lingua parlo sì, che potea disperar ogni amante. Andromeda infedel, penso ti inganni, veste mi disse che da l'iso accendo un fuoco in lei maggior, ogni altro fuoco. Oh, Mi piace, mi dille, dalle rai. sarà cor afflitto, speri giammai per te, propizia stella. Ah, che bene o m'avveggio, che trasprimi di morte stai sospeso. Thank you. vita sorte, tanto m'affligge, tanto, che se ben tu non vedi quest'occhio lacrimar, ne scopri il pianto. Già nemico d'amor, amar non voglio, androne da lo sai. Ama che giusto il tuo Perseo fedel, che ben lo merta, io porto. Almeno non partir si presto, ode pria che tu parta. La speranza è un delirio. Che fanno in questa guisa, l'amor mio tu disprezzi. Bella, con tal vigore, nella mia libertà servo il piacere. Piacere che troppo è fiero, a quest'almo d'aliso, che ti vive. Ma piacere che mi giova. A dirmi sì, tu, disdegno che mi formare. Già te lo dissi ancora, non voglio amore. Ah,

e tempo ormai candiamo il tempio dove sull'are preparate il grande sacrificio si consumi e rendasi l'onor ai sommi dei cui del nostro gioir devesi il merto. Andiam Meliso da se lieti auspici sperar mi giuro per favor ben nubi il cielo ognor sereno e la greggia lieta il praticel più ameno. Thank you.

bello, filo di vento, ne via tormento, ne via tormento di colla dal modello. Thank you.